controlla, però mi metto la scappatoio, vado in bagno e poi mi rimetto a letto, non è che... però dentro il letto devo essere libero, perché a me, a mettermi i cappotti come fa la molta gente, a essere tutti quanti imbambucati, non ci riesco, no, non lo sopporto. No, io no, non ci riesco invece a dormire così. No, ci ho provato tante volte, ma non ci riesco, devo avere per forza il pigiama. Beh, tanto io gli dici, io non ci riesco. Pensa che io in estate mi butto sopra il letto e mi metto dei pantaloncini corti, però non c'ho nulla, niente, né la sola né niente, mi ci butto sul letto e dormo così. Ma invece non ci riesco. Allora d'estate, anche se c'è molto caldo caldo, senza lenzuolo. Però il pigiama ve lo devo sempre avere. Bene signori, siamo prossimi fra 20 minuti alle 11 e Giuseppe vi super saluta. Ehi, scappagappa, no, io il pigiama so dove lo uso, solamente all'ospedale, perché purtroppo lì lo devi avere perché non sei da solo, e poi ti alzi per andare in bagno, per fumarti la sigaretta, e mille motivi. Allora lì lo tengo, ma lo tengo perché sono obbligato il pigiama. Però a portarlo dentro casa non è per me. Scappa. Buonanotte Giuseppe, dai, si stai chiudendo. Ce la risentiamo domani alle prossime, dai. Ciao ciao, buonanotte. Eia, KK, Anto, buonanotte anche a te, dai, che domani devo fare un sacco di cose, domattina mi devo alzare presto stesso, poi quando, se ci vediamo domani già ti dico, e mi sbrego un sacco di commissioni domani, dai. Ciao Mario, buonanotte anche a te e buon 144 quando lo fate, ci sentiamo domani, ciao ciao. Anche io non è che devo fare commissioni, ma domani devo andare a lavoro, così che anche io me ne vado a letto e niente. Ma tu domani già non lavori, così che non è che ti devi alzare così presto, anche perché gli uffici aprono alle 9. Va bene, 144, sogni d'oro a tutti quanti. E niente, ci risentiamo alle prossime, se quello di su ce lo permette e se i carabinieri acconsentono. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao Mario, c'è anche a te Giuseppe, da.